Effetto Mondo. I can't breathe. I can't breathe. George Floyd's last words, but they didn't die with him. Non posso respirare. Le parole, credo, di Joe Biden, Giulia Crivelli, giusto? Sì, ieri Joe Biden ha, potremmo dire, finalmente parlato di tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e quindi le rivolte di piazza, ma anche la reazione della Casa Bianca. Ha ripetuto queste parole: non posso respirare, non riesco a respirare, non riesco a respirare, ha detto, sono state le ultime parole di Joe Biden, di George Floyd, ma non sono morte con lui. L'appello di Joe Biden, è che viene raccolto, naturalmente viene raccontato da tutti i quotidiani oggi, è di trovare in qualche modo una leadership, perché in tantissimi della comunità afroamericana, a partire dal fratello di George Floyd, hanno cercato di portare a manifestazioni pacifiche e non ci sono riusciti per ora. Quindi serve un più alto livello di leadership, naturalmente ci si riferisce al presidente Trump, che però è nel mezzo di questa polemica innescata domenica, quando è andato davanti alla chiesa di St. John, che è la più famosa chiesa, è la più vicina chiesa alla Casa Bianca e quindi frequentata da molti presidenti. Ieri poi, tra l'altro, si è fatto fotografare con la moglie Melania, sempre a Washington, alle sue spalle una statua di Giovanni Paolo II. Davanti alla chiesa di St. John ha esibito una Bibbia, e qui si è molto arrabbiata il vescovo di Washington, che è una donna, perché si tratta di una chiesa episcopale. Se vuoi possiamo sentire le sue parole, che ha parlato sia lunedì, immediatamente dopo l'episodio, ma anche ieri. Sentiamo le sue parole. Sì, sentiamo. Ieri. If he had come to acknowledge the grief and the outrage that people are feeling at yet another senseless, brutal killing of an African American man at the hands of a white police officer. Cosa dice il vescovo, donna di Washington, dice, Giulia? Sì. Dice, innanzitutto non è neanche entrato in chiesa per pregare. Io l'ultima volta che l'ho visto è stato durante la cerimonia, subito dopo la cerimonia di insediamento, quindi parliamo del gennaio del 2017. E dice, se fosse venuto qui per esprimere il suo dolore e per quello che sta succedendo e per l'ennesima morte di un afroamericano per mano di un poliziotto bianco, io l'avrei accolto a braccia aperte. Venire qui e brandire la Bibbia in quel modo, no. E lei, la prima parola che aveva usato era outraged, cioè fuori di me. E poi ha un po' abbassato i toni, però insomma l'episodio anche oggi, a distanza di 2 giorni, se ne discute ancora. Sulla prima pagina del New York Times ha proprio l'articolo di spalla, e tra l'altro è stato il ministro della giustizia Barr a ordinare questa, tra l'altro, che i poliziotti, in completa tenuta antisommossa, allontanassero tutte le persone che c'erano davanti alla Casa Bianca per poter permettere a Donald Trump di essere fotografato in tutta tranquillità durante quel la scena. Ricordiamo ancora una volta, perché per darvi un'idea, vi cito un altro titolo di taglio economico per dare l'idea di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Sul Wall Street Journal naturalmente ci sono le foto dei dimostranti in tutta la città, dove il coprifuoco è stato esteso per altri 5 giorni. Il più grande, questo è da notizia VVD, che è il quotidiano economico più importante al mondo per quanto riguarda il sistema moda e lusso, ipotizza che possa saltare l'acquisizione fatta da LVMH, colosso francese, di Tiffany, che è il più antico marchio del lusso americano, e anche era un'operazione dell'agosto scorso, 16 miliardi di acquisizione. Ma è talmente grave la situazione, perché tra l'altro siamo in un anno elettorale, quindi l'incertezza era comunque messa in conto, ma le reazioni di Trump, che non sembrano riuscire a calmare gli animi, stanno esacerbando veramente la situazione anche economica. E il Washington Post la prende ancora da un altro angolo, E spiega che il famoso Affordable Care Act, che era quel tentativo di introdurre una forma di assistenza sanitaria pubblica per tutti, voluto da Trump, un compromesso rispetto alla riforma che avrebbe voluto Bill Clinton, per esempio, a questo Affordable Care Act hanno accesso soprattutto gli afroamericani, ma Donald Trump, nei primi anni della sua presidenza, lo ha praticamente definanziato. Quindi a tutte le disuguaglianze economiche che ci sono negli Stati Uniti, e non voglio farvi cifre, ma molti degli ascoltatori le conosceranno, si è aggiunto anche questo dramma del constatare che le cure non sono uguali per tutti, non sono uguali per gli afroamericani rispetto alle altre comunità degli Stati Uniti. Qualcos'altro ancora dall'America, la pagina americana, prima di andare poi negli altri paesi, Giulia? Beh, sicuramente, insomma, ci sono, il problema è che queste proteste si stanno diffondendo ovunque e teme persino il Canada. La cosa che mi ha fatto impressione sono state le dichiarazioni del premier canadese Justin Trudeau, che quando gli hanno chiesto cosa pensa di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ha fatto 15 minuti di silenzio, proprio di scena muta. È uno di quei casi 15 in cui il secondi, silenzio 15 vale più di secondi. mille. Sì, Hai scusami, detto 15 minuti, secondi. immaginavo 15 minuti No, interminabili di 15 silenzio. secondi, Ok. con uno sguardo che veramente sfidava le telecamere, e poi ha detto, questo ci deve insegnare a noi canadesi a cercare di individuare anche tutte le disuguaglianze degli, in questo caso, afro-canadesi che ci sono nel nostro paese, perché anche lì ci sono e quindi stanno mettendo appunto un piano antirazzismo, così lo ha chiamato. E poi la notizia è che anche in Canada sono aumentati post-pandemia i costi dei dentisti, i costi degli alimentari e anche dei funerali. È tutto diventato più caro. Questa è una cosa che sperimentiamo anche qui da Ahimè, noi, insomma, la ahimè. tassa Covid. Mi ha colpito molto tra le notizie in Germania, quello sull'orientamento a muoversi, perché ne parlavamo prima con un esperto di trasporti, insomma, recuperata la libertà di poterci spostare, dovremmo recuperare il nostro coraggio anche di tornare a volerci muovere, perché altrimenti rischiamo di rimanere immobilizzati. E in effetti c'è un sondaggio interessante in Germania a questo proposito. Sì, la Bild dice che il 29% dei tedeschi in teoria non vorrebbero nemmeno viaggiare, quindi fare delle gite, noi le chiamiamo le gite fuori porta. Adesso vediamo se veramente succederà. Comunque la Germania, forse sarà anche, sicuramente i tedeschi hanno fame di caldo in estate, perché comunque in Germania anche in estate non è mai caldissimo, però potrebbe essere l'estate in cui riscoprono anche tanti dei bellissimi luoghi naturali che hanno. C'è un piccolo disturbo sulla linea con Giulia. Vediamo se la recuperiamo negli ultimi 2 minuti oppure se passiamo alla linea telefonica. Ci stava raccontando della Germania di questo sondaggio che, insomma, fondamentalmente evidenzia come i tedeschi in questo momento preferiscono stare a casa, non muoversi, non andare, non uscire dalle loro città. Ma nemmeno dalla Germania, perché prevale un senso di paura, e questo credo che sia un tratto psicologico che riguarda tutti, giusto dirlo anche adesso, il giorno nel quale stiamo recuperando la nostra libertà di spostamento. Mi fanno cenno dalla regia che non recuperiamo il collegamento con Giulia. No, niente, allora è finita qua la puntata. Del resto, il tempo a nostra disposizione era praticamente esaurito. Quindi, questa era la prima puntata dopo il ponte del 2 giugno. Ci risentiamo naturalmente domani, sempre in diretta. Oggi con Peter Bescapa in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Abbiamo recuperato Giulia? Sì, allora abbiamo ancora forse un minutino, Giulia. Dopo i saluti, per cosa a questo punto? Ti sei interrotto? Sulla Non so Germania. se mi avete sentito quando Quasi parlavo tutto. del desiderio britannico di andare in vacanza. No, qui ci siamo persi. Ok, il Daily Mail appunto titola Save Our Summer Holidays, cioè salvate, l'appello è a Boris Johnson, le nostre vacanze estive. Il tema è quello di capire se ci sarà questa quarantena e se Boris Johnson riuscirà a trovare degli accordi perché nessuno venga messo in quarantena quando arriva in un paese, per esempio in Spagna. Vedremo, insomma, c'è tempo perché le vacanze per i britannici iniziano, diciamo, prima, seconda settimana di luglio. E va bene, ti ritroviamo domani, Giulia. Grazie, è tutto per la puntata di oggi. Saluti li ho già fatti. Ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao.